America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. La Fed sta considerando nuove azioni per intervenire sul mercato con massicci acquisti di titoli a reddito fisso a lunga scadenza. Obiettivo: sostenere l'economia. Decisione così attesa, per ora non ufficiale. Il titolo reale ce lo dà in anteprima il Wall Street Journal di questa mattina. Buona notizia ovviamente per i mercati. Notizia che potrebbe essere anche parte della trama di Wall Street 2, Money Never Sleep, i soldi non dormono mai. Michael Douglas, Gecko, regia Oliver Stone, debutto nel fine settimana, incasso record per il weekend, 19 milioni di dollari. È una storia romanzata della crisi 2007-2009, il solito triangolo finanza, denaro, successo che però continua a lasciare il segno. Gli americani vanno al cinema, ma qui dai microfoni di America 24 abbiamo fatto qualcosa di più, siamo andati direttamente al party inaugurale per il lancio di questo film. Al Cipriani, sulla 42esima strada, una vecchia banca cattedrale, navate enormi, di quelle banche costruite negli anni 20 che oggi ospita incontri conviviali, sic transit come si dice, se non fosse che ci accoglie direttamente il regista Oliver Stone. Yes, Mario, thank you for being, you're great. I love thank you for having us. The table. Il film ha avuto reazioni miste. Scott, il critico del New York Times, in genere durissimo, le riassume così: la storia vera della calamità finanziaria è talmente enorme, intricata, confusa, che ogni distillato romanzato avrà difficoltà. Ci sono cose dunque che sembrano strane, altre di incredibile illuminazione. Ti trascina il senso di un dramma morale che sembra vero nonostante alcune inaccuratezze. Un film a tratti brillante e sciocco, naif e saggio, a volte non abbastanza buono, a volte vicino alla grandezza. And maybe I was in prison too long. One watch and one mobile phone. But sometimes it's the only place to stay sane and look out through those bars and say, is everybody out there nuts? Eccolo, Gecko, Michael Douglas, in uscita dalla prigione dove l'abbiamo lasciato nell'ultimo Wall Street. Gli restituiscono l'orologio, il vecchio telefonino anni 80, che sembra un'astronave, e scrive un libro. Ha scritto un libro in cui dice, beh, da dietro le sbarre vedi molto meglio la follia che c'è fuori, una follia assoluta. Someone reminded me I once said, greed is good. Now it seems it's legal. La figlia di Gecko, Carey Mulligan, il suo innamorato, Shia LaBeouf, come sentite dallo scontro, insomma, il dramma avanza. Poi c'è Josh Brolin e il grande vecchio Eli Wallach. C'è anche una qualità documentaristica, devo dire, in questo film, perché Stone ingaggia come attori e comparse persone di tutti i giorni. Anzi, se guardate bene, vedrete anche il vostro corrispondente in qualche angolo. E per questo al party incontriamo tutti e di tutto. E qui una delle star del film, Ed Epstein. Ed, come stai? Très bien. Oh, very well, very well. I noticed all my friends in the SEC in the movie. Ed Epstein è un autore americano, ha scritto un libro su Hollywood. La sua tesi è che al botteghino i film non fanno davvero incassi che ripagano. Tutto ormai sta nella vendita elettronica, nei DVD, nella distribuzione e naturalmente nella lotta alla pirateria. E qui lui ripete che in questo film ha visto un sacco di amici suoi, molti, alcuni esperti, per esempio della Security Exchange Commission, che sono stati consulenti di Oliver Stone, che fra l'altro è un suo vecchio amico. Ali Velshi, what a pleasure to meet you, sir. You played yourself, no? That's right, yeah. And you are with CNN. Oh, CNN, yeah. Okay. E qui è Ali Velshi, che è uno dei commentatori economici e finanziari di CNN, una delle star dei programmi del mattino, commentatore che muove i mercati. Anche lui nel film appare, ovviamente, in uno spezzone in cui animatamente descrive la caduta di Wall Street, la preoccupazione degli operatori. Anche lui interpreta se stesso. Yeah, it was more of a drama than the last one. I mean, it was a more touchy-feely. Uh-huh. I think it's going to appeal to women a little bit more than men. It was a nice romantic story. Yeah. You know? And so the other one was just cutthroat. Ecco qui Welch, per chi ha capito quello che ha detto, dice: beh, dice, è meno drammatico forse dell'ultimo film, più touchy feeling, così è un film un po' più un drammone. E qualcuno ha usato dire forse un finale un po' banale, non aggiungiamo altro. Però approfittiamo per chiedere a Welch cosa pensa di Wall Street oggi, come va la borsa. I think the larger economic concerns are greater than the election concerns at the moment. Yeah. I mean, I think the market's good. I a little more constructive on non-US stuff than US stuff or US companies. Uh-huh. You know, getting the revenues elsewhere. Secondo Welch, le elezioni che si terranno a novembre rappresentano una preoccupazione minore rispetto invece alle condizioni dell'economia, perché di fondo l'economia non sta bene, ha bisogno di altre iniezioni per potersi riprendere. Detto questo, lui non è tutto sommato negativo sull'andamento dei titoli azionari, perché potranno cominciare a scontare quello che forse nel 2011 potrebbe essere una svolta, ma dà un'indicazione. Mi concentrerei, dice, molto su titoli stranieri. Joe Namath. Oh, really? So how did you like the movie? Like it very much. Yeah. I like it. So are you working on anything now? Writing. Yeah, what? Ah, come on. Spike Lee. Al party c'era anche il grande regista afroamericano, il quale ci confida intanto di aver apprezzato molto il film, di essere un tifoso dei Jets, la squadra di football, e ci confida che sta scrivendo. In questo momento non sta lavorando a un film, sta scrivendo. Che cosa? Non ce lo vuole dire, mette le dita sulle labbra, come per dire sono completamente sigillate. C'è anche Catherine Wallach, la figlia di Eli Wallach, che è questo attore straordinario, molto vecchio, 94 anni, che interpreta un ruolo importante nel film. C'è grande emozione perché prenderà l'Oscar alla carriera, a quanti anni? Ancora il 94 con l'Oscar in mano, per la cosa in TV, il grande spettacolo, 95. Quanto è faticoso lavorare per prendere un premio Oscar? Sì. Noi avevamo iniziato in maggio, per chiedere a tutti questi attori, registi, produttori, lettere. Ed ecco in diretta ai microfoni di America 24 da New York il grande Eli Wallach. È un gran piacere per me dividere il palcoscenico con Anna Magnani. And you know what she said? Uffa! Well, I usually die in these movies. My son, yeah. I got shot by Yul Brynner. E qui Wallach ci dice che è molto contento perché in questo film lui non muore. Cioè, io in genere nei film muoio. Per esempio, fui anche ucciso a un certo punto da un colpo di pistola di Yul Brynner. E gli chiediamo chi vorrebbe fosse l'attore che gli consegnerà il premio Oscar alla carriera alle cerimonie dell'Academy Award che si terranno l'anno prossimo. Yeah, Clint would be good. Clint, ovviamente, è Clint Eastwood. Però abbiamo sentito anche Josh Brolin, che ha un ruolo importante in questo film perché è l'antagonista di Michael Douglas, l'antagonista di Gecko, un uomo così nel film cattivo, e poi vabbè, anche lì non vi diciamo come va a finire. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di Wall Street 2, dunque lasciamoci con la canzone, con la colonna sonora del film, i Rolling Stones, Sympathy for the Devil, simpatia per il diavolo ovviamente è Michael Douglas, che dà un'interpretazione comunque magistrale. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.